Polonia al voto, tra città e campagna, tra amore e odio per l'Europa. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Poland prepares to vote for the first time during a pandemic. Poland's president Andrzej Duda arrived in Washington DC to hold talks with the US leader Donald Trump. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata, l'ultima della settimana di Nessun Luogo Lontano. Vi porgo i saluti da parte anche di Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza abbiamo Laura Faggin e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, questa è la pagina, cercatela, lì troverete anche la diretta Facebook. E poi siamo su Twitter, se amate cinguettare, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, sono i due account da tenere d'occhio. Domenica si vota in Polonia, un appuntamento elettorale importantissimo, posticipato più di una volta a causa dell'epidemia da Covid-19, un appuntamento elettorale che ha visto il presidente Duda muoversi in maniera molto rapida di poche ore fa, sostanzialmente la chiusura della sua visita a Washington, dove ha incontrato il presidente Donald Trump. Cercheremo di capire da un lato la valenza di questa tornata elettorale in Polonia, dall'altro le conseguenze che potrà avere su Visegrad, sul blocco Visegrad, ma anche sull'intera Unione Europea. Detto ciò, la prima cosa da fare anche questo venerdì è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta negli Stati Uniti, perché la Camera dei rappresentanti ha approvato una proposta di legge per la riforma della polizia. Voi sapete che da settimane una grossa fetta della società civile americana si sta muovendo con gli slogan Defunding Police, che è anche un hashtag che va per la maggiore su Twitter. Il tutto a poco più di un mese dalla morte di George Floyd si è innestata nel dibattito statunitense questa proposta di abolire, o quantomeno non abolire, di ridurre i fondi per la polizia, una polizia che molto spesso viene vista troppo militarizzata, che ha armi da guerra in un paese, utile ricordarlo, dove la vendita delle armi è particolarmente cospicua. E la legge è passata nonostante il presidente Donald Trump avesse cercato di far capire ai suoi repubblicani di porre il veto già alla Camera bassa, e però alcuni deputati repubblicani hanno sfidato apertamente il presidente dando l'ok a questa legge. Democratici contenti per il momento, ma per loro è in vista una grossa delusione, perché al Senato ragionevolmente non passerà, la maggioranza è repubblicana e soprattutto il presidente Donald Trump ha minacciato il diritto di veto su questa proposta. Fra i punti in questo disegno di legge c'è il divieto della presa al collo degli arrestati, l'introduzione della responsabilità personale degli agenti nelle cause legali per danni, l'istituzione di un registro nazionale dei comportamenti illeciti della polizia che dovrebbe essere gestito dal Dipartimento di Giustizia. Insomma, verrebbe da dire, qualcosa si muove e qualcosa si è mosso anche a livello di governatori locali. Poi ieri vedevamo notizia di quel ennesimo video che ha mostrato la brutalità di un intervento di polizia durante un arresto ai danni di un cittadino 27enne di origine ispanica. Un altro dossier caldissimo sul tavolo della Casa Bianca, e non solo, è quello evidentemente dell'epidemia da Covid-19. Continua a crescere infatti il numero dei contagi da coronavirus negli Stati Uniti. Ieri è stato toccato il nuovo record di 40.000 contagi in un solo giorno, 2.200 le vittime, sempre secondo i dati della Johns Hopkins University. Adesso nel paese sono 2,4 di milioni i casi confermati e oltre 122.000 i morti, ma come sappiamo il numero reale potrebbe essere molto molto più alto. Si è rifatto sentire Anthony Fauci, il virologo che guida la task force della Casa Bianca, si è fatto sentire con un'intervista al Washington Post e ha dichiarato testualmente: qualcosa non sta funzionando. Tra l'altro in questo momento la BBC, come immaginate, è in diretta video su quello che è il luogo di questo attacco, lo sentivate dal GR, da Sergio Nava. Se vi saranno novità ovviamente cercheremo di darvene conto, non è chiaro né la dinamica né chi sia l'autore di questo triplo accoltellamento in un hotel che era chiuso. Continuiamo a buttare un occhio alle agenzie e ai network internazionali. L'ultimo dossier che vi propongo in questo venerdì di Nessun Luogo è Lontano è un raid che è stato condotto dalle forze irachene. Perché ve lo segnalo e perché è importante? Perché i militari delle forze speciali di Baghdad sono andati a colpire una base controllata dal gruppo Kataib Hezbollah, che è una milizia supportata dall'Iran. Secondo l'intelligence irachena, infatti, questa milizia aveva nel cilindro, per così dire, un nuovo attacco contro le forze statunitensi in territorio iracheno. È la prima volta che il governo di Baghdad conduce un'azione così risoluta e così apertamente ostile a queste milizie filo-iraniane che sono presenti sul territorio iracheno. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono i fatti, le notizie che stiamo seguendo io e tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano, e magari diventeranno approfondimenti nei prossimi giorni. Adesso però con Roberta Frisani andiamo in Polonia. Andiamo in Polonia perché domenica è una giornata importante. Si sarebbe dovuto votare il 10 maggio, poi rinviato al 3 giugno e infine spostati al 28 giugno. Sullo sfondo di questa tornata elettorale, come immaginate, non soltanto la situazione sanitaria legata al Covid-19, ma anche la situazione economica, benché secondo le stime l'economia polacca sarà una di quelle nell'area dell'Unione Europea a meno risentire di quella che è la crisi che secondo molti analisti ci aspetta adesso, ma soprattutto in autunno. Secondo le stime, infatti, l'economia polacca rallenterà appena del 4-5%, uno scenario insomma tutto sommato non disastroso, ma se teniamo conto che dal 91 che l'economia polacca continua a crescere, per il paese può essere una bella botta. Il partito Diritto e Giustizia è un partito di destra che ha il potere, ha vinto per pochi voti le elezioni generali lo scorso autunno, ma ha perso il controllo della Camera Alta del Parlamento e quindi il controllo della presidenza stessa diventa una chiave per garantire una continuità del governo. Allora, vi faccio sentire innanzitutto immediatamente la voce di Wojciech Brzezinski, che è il direttore di Visegrad Insight, che ci dà un primo commento su questo continuo rinvio della tornata elettorale. Sentite. Andrzej Duda and his party wanted to hold election. Andrzej Duda e il suo partito volevano che le elezioni si tenessero nella data originale del 10 maggio, prima di tutto perché il presidente in carica era in testa nei sondaggi, con buone possibilità di vincere addirittura al primo turno delle elezioni. In secondo luogo, ma non meno importante, c'era il problema dell'aspetto legale che non permetteva di posticipare le elezioni o di utilizzare procedure elettorali diverse, non essendo stato dichiarato lo stato di emergenza passo legale necessario per posticipare il voto. Quindi il partito di governo non voleva modificare la data delle elezioni, ma durante la campagna ha tentato anche di cambiare la legge elettorale, aspetto che ha sollevato molti dubbi, inclusi l'attenzione dell'OSCE. Including doubts from the OSCE. L'appuntamento elettorale di domenica, le prime, anzi dovrei dire le ultime mosse di Andrzej Duda, nelle parole di Wojciech Przybylski, che è direttore di Visegrad Insight, è una testata che è particolarmente attenta su tutte le dinamiche politiche, sociali e economiche proprio dei paesi del blocco di Visegrad. Cercheremo di capire naturalmente se il partito Diritto e Giustizia troverà una sua riconferma alle urne, e soprattutto cercheremo di capire se Andrzej Duda, il presidente, dovrà ricorrere per garantirsi le linee di governo che lui vuole scegliere a questo diritto di veto che è nell'ordinamento polacco e che sostanzialmente dà al presidente un valore maggiore rispetto, per esempio, al presidente e al ruolo che siamo soliti vedere in Italia. Dicevamo Covid-19, elemento scatenante per il posticipo dell'appuntamento elettorale. Ancora Przybylski che ci fa sapere se però il Covid è stato un elemento centrale della campagna elettorale. Sentite. Il Covid-19 è stato ovviamente la cornice della campagna elettorale assieme al modo con cui il governo ha gestito la crisi, quella sanitaria e quella economica. Secondo i sondaggi però la maggior parte delle persone è più preoccupata per l'economia rispetto alla situazione sanitaria, che si è rivelata non altrettanto grave come in altre parti d'Europa e in Italia. Ma allora quali sono stati i principali temi di dibattito in questa campagna elettorale? Sentite ancora il direttore di Visegrad Insight. Chaskowski, the name of the mayor is Rafał Chaskowski. Rafa Czarkowski, in quanto sindaco di Varsavia, rappresenta la Polonia urbana, la Polonia delle città. Non solo perché viene dalla capitale del paese, Czarkowski è inserito in una rete di contatti, ha un forte rapporto con i sindaci in tutta la Polonia. Sindaci che sono in conflitto diretto con il governo perché il governo nazionale centrale sta imponendo sempre maggiori responsabilità e doveri sulle municipalità, senza però sopperire con maggiori concessioni ai bilanci degli enti locali. Quindi si può dire che Czarkowski abbia un vantaggio elettorale nelle città rispetto alle posizioni politiche centralizzate del presidente in carica. Dai sondaggi, infatti, si può notare che nelle città la popolazione preferisce Czarkowski rispetto a Duda. In the opinion polls is starting to favor Czarkowski over Duda. Uno degli elementi più importanti di questa campagna elettorale ha riguardato il tema dell'efficacia del governo in tempi di crisi. Il tema è stato portato avanti da entrambi i candidati principali. Da un lato Andrzej Duda ha cercato di presentarsi come il più allineato con il governo e quindi beneficiare dell'effetto chiamato Rally Round the Flag, effetto che vede maggiore sostegno popolare al governo di un paese durante periodi di crisi nel breve periodo. Dall'altro lato però Rafa Czarkowski ha promesso lungo tutta la campagna elettorale che avrebbe mantenuto un approccio costruttivo e che avrebbe supportato il governo in caso di necessità. Quindi si può notare come questo elemento abbia avuto molta eco nell'opinione pubblica. Un altro tema della campagna elettorale è stato il motto di Rafa Czarkowski: quando è troppo, è troppo. Ancora una volta non sta parlando di un dibattito rispetto a specifiche politiche, ma piuttosto un atteggiamento che Czarkowski rappresenta, ovvero la diffidenza rispetto alla centralizzazione del potere che sta avvenendo con Andrzej Duda. Represents of people wary of centralization of power with Andrzej Duda as incumbent president. La voce di Pribiski, che è il direttore di Visegrad Insight, tratteggia quella che è la sfida presidenziale di domenica in Polonia: Duda contro Czarkowski, città contro campagne, posizione più filoeuropee e meno filoeuropee, più filotrampiane e un po' meno. Non è un caso che Andrzej Duda si sia recato nei giorni scorsi, appena prima dell'appuntamento elettorale, pensate, in Polonia, è volato fino a Washington per incontrare il presidente Donald Trump. Naturalmente non c'è solo questo aspetto, tra pochissimo con il nostro ospite ne andremo a toccare altri, non da ultimo il rapporto della Polonia con l'Unione Europea. Sapete che, diciamo, il blocco Visegrad spesso fa venire dei gran mal di pancia a Bruxelles, ma anche con la NATO, con la Germania in particolare e poi più in generale con tutti i paesi che sono a est della Polonia. (349) 238 6666 per i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre osservazioni su quello che è l'appuntamento, le presidenziali in Polonia di domenica. Leggo i primi messaggi. Claudio da Verona: premesso che un popolo di lavoratori, quello polacco, quando non dedito all'alcol, visto i problemi che tale abitudine ha a quelle parti, diciamo che è il paese europeo, scrive l'ascoltatore, che più ha goduto degli aiuti economici da parte dell'Unione Europea. Poi sul fatto che siano chiusi a qualsiasi intromissione esterna è comprensibile, visti i progressi del regime comunista. E poi, dice l'ascoltatore, questo stato di libertà e benessere lo vogliono preservare. Così Claudio da Verona, che al di là, diciamo, della sottolineatura sull'elevato consumo di alcol, però io qua, insomma, starei attento a non generalizzare, ecco. Penso che sottolinei in maniera piuttosto efficace quella che è un'attitudine da parte della politica, della società polacca sulla ripartizione, per esempio, dei rifugiati in Unione Europea. Hanno sempre messo un veto incredibile, sono anche stati sanzionati dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Commissione, è anche vero che però hanno goduto anche dei benefici dell'Unione Europea. E su questo rapporto così ambivalente, amore e odio potremmo dire verso l'Europa, tra pochissimo ne parleremo. 349-238-6666, ma anche Twitter, Nessun Luogo 24, Giampazza su Facebook, siamo Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. E intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo anche a Matteo Tacconi, giornalista freelance, esperto proprio di Polonia, la segue ormai, direi, Matteo, 15 anni? Sì, esattamente 15 anni. Allora, ancora 3 anni sarai maggiorenne sostanzialmente, come educazione sentimentale politica polacca, ecco, per dire, per finire la settimana con una battuta. Allora, Matteo, innanzitutto un primo commento al volo sull'importanza di questa tornata elettorale. Il partito di Duda non è più fortissimo come una volta, però i poteri del presidente potrebbero garantire a diritto e giustizia una certa continuità, no? Elettorale e governativa anche in qualche modo. Ma sì, certo, la centralità del voto sta nel fatto che la Polonia è un paese semipresidenziale, quindi l'istituzione presidenziale non è notarile, per esempio esprime un veto forte, ribaltabile solamente con i 2/3 della Dieta, che è la Camera bassa ma che conta di più del Parlamento. Diritto e giustizia, il partito al governo non ce li ha, sì. non dispone di questa maggioranza. Duda nel primo mandato non si è mai opposto a nessun tipo di riforma, salvo qualche smarcamento cosmetico portata avanti dal governo, men che meno quelle sulla giustizia, che sono quelle che hanno determinato la frattura principale con l'Unione Europea. Trzaskowski, se eletto, ha già fatto sapere che non esiterà a bloccare nuovi ulteriori affondi nei confronti dello Stato di diritto, perché il campo liberale, di cui Trzaskowski è un esponente di sì. peso, come sottolineava il collega Przybylski, è molto preoccupato dal fatto che i populisti, se Duda fosse confermato presidente, non esiteranno a portare avanti nuovi processi di cattura della giustizia. Ecco. Sì. Ecco, fra l'altro poi in chiusura di trasmissione vi faremo sentire anche degli attivisti del movimento LGBT, perché nel mirino c'è anche questa parte della società civile polacca che ai nostri microfoni hanno espresso tutta la loro preoccupazione. Poi c'è il dossier immigrazione e ci arriveremo con tutte le ambiguità del comportamento politico della Polonia. Con Matteo Tacconi, lo ricordo, un giornalista freelance che da oltre 15 anni segue le vicende polacche, il suo sito è matteotacconi.com. Volevo affrontare però un capitolo. A pochi giorni dalle elezioni è un po' bizzarro che il presidente a capo del partito di maggioranza relativa si rechi proprio a Washington negli Stati Uniti, invece di consegnarsi all'abbraccio virtuale in tempi di Covid-19 del suo eletterato polacco. Che cosa è andato a fare a Washington e perché proprio a Washington, Matteo Tacconi? Ma questa Polonia, la Polonia di Duda, di Kaczynski, la Polonia populista, è molto filoamericana, ma ancor più è filo Trump, per due motivi. Il primo è che c'è una tendenza ad affidare la propria sicurezza più agli Stati Uniti che alla NATO, cioè a entrambe, ma con una priorità accordata agli Stati Uniti. La seconda è che Trump fa parte della stessa famiglia politica, Trump, Kaczynski, Orban, quindi sono dei politici che promuovono una rivoluzione culturale che vorrebbe, come dire, svuotare l'Occidente e l'Europa dei principi liberal-democratici che li ispirano. E questo è il gioco che ha fatto Duda andando negli Stati Uniti. Quindi un endorsement da parte dell'alleato Trump, sì. Ma anche una richiesta di spostare una parte dei militari americani che Trump vuole disimpegnare dalla Germania in Polonia. Quindi sicurezza e valori. Sì. Questo è andato a fare a Washington. Hai detto poco, Matteo Tacconi, perché intanto sembra uno schiaffo sonoro rivolto a Berlino e dall'altra parte Duda si assicura una presenza importante e prestigiosa, per così dire, perché ospitare un avamposto statunitense lì mentre ti affacci all'est, alla Federazione Russa, non è cosa da poco. Arrivano un po' di messaggi Al 349-238-6666 Manfredo da Firenze dice: ritengo le politiche riguardanti la comunità LGBT un benchmark virtuoso, evidentemente da rispettare per definire il livello di società di un paese. Tra pochissimo ci andremo, però Matteo, abbiamo provato a tratteggiare la figura di Andrzej Duda in 90 secondi e poi sei quasi maggiorenne polacco, 15 anni che la studi, poi ci dai un voto, sentite. Conservatore, tradizionalista, laureato in legge ed ex ricercatore universitario, il presidente polacco Andrzej Duda milita nel partito Diritto e Giustizia dal 2005, dopo una prima esperienza politica fallita nel partito Unione della Libertà, di idee liberali. Da quando nel 2015 è stato eletto presidente, sconfiggendo il presidente uscente Bronislaw Komorowski, Duda ha giocato su più tavoli, tanto per aumentare la rilevanza della Polonia che per promuoversi in vista di un secondo mandato. Ha duramente criticato l'Unione Europea, ma senza rinunciare ai cospicui finanziamenti di cui la Polonia gode grazie alla UE. Si è detto entusiasta della nuova via della seta promossa dal presidente cinese Xi Jinping, con il quale ha stretto un accordo strategico, ma allo stesso tempo ha mostrato grande vicinanza con Donald Trump. Fino al 2017 i sondaggi ritenevano Duda il secondo presidente polacco più popolare di sempre, ma le ultime previsioni sulle elezioni presidenziali del 28 giugno 2020 indicano un testa a testa tra Duda e lo sfidante Aleksander Zwaniewski. Questo il profilo, il ritratto di Duda in 90 secondi con Matteo Tacconi. Proviamo a approfondire un altro aspetto, perché dal ritratto che abbiamo ascoltato c'è o ambiguità o una grandissima astuzia politica, quasi al limite del mellifluo, no? Non dico il flirt con Xi Jinping, con Trump sicuramente. Sicuramente si sa muovere su più fronti e gioca su più tavoli, correggimi se sbaglio. Più che Duda, quello che sa muoversi è Kaczynski, che è il vero dominus della Polonia. Duda, ma anche il premier Morawiecki sono un'espressione di Kaczynski, o quantomeno sono ai suoi ordini. È una Polonia molto spregiudicata, che somiglia all'Ungheria di Orban sotto certi aspetti, nella gestione del potere, nella ricerca di determinate alleanze internazionali, nella postura in Europa, e per tornare alla Germania che tu citavi, una differenza tra liberali e populisti è l'approccio alla Germania. Entrambi la ritengono fondamentale, ma per i populisti conta solo il lato economico, per i liberali conta anche il processo di riconciliazione dopo le ferite del Novecento, che in questi 30 anni fondamentalmente è progredito. I populisti invece cercano un po' di fare un po' il solletico a questo sentimento antitedesco ancora presente nella pancia del paese. Sì. La voce di Matteo Tacconi che ci aiuta in questa analisi, appuntamento elettorale importantissimo, quello di domenica, posticipato due volte a causa dell'epidemia da coronavirus, e domenica invece i polacchi, i cittadini polacchi, andranno alle urne. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Ve ne darò conto tra pochissimo, non prima di aver ascoltato l'informazione finanziaria. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta: Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Stiamo scaldando i motori, o i muscoli se preferite, in vista dell'appuntamento elettorale di domenica in Polonia. Duda cerca una conferma per poter proseguire in quella che è una politica, lo ricordava Matteo Tacconi, particolarmente spregiudicata sia in politica estera che anche all'interno della Polonia stessa. Matteo Tacconi, uno dei, lo ricordo, giornalista freelance, matteotacconi.com se volete saperne di più, uno dei temi che ha sempre attraversato la politica polacca degli ultimi anni, e fra l'altro un ascoltatore ci ricorda anche delle infrazioni che sono state contestate a Polonia e Ungheria con l'inizio delle procedure, l'infrazione dell'articolo 7, è sempre stato l'atteggiamento verso l'Europa. Credi che con la conferma di Duda potrebbe cambiare qualcosa in questo atteggiamento decisamente euroscettico? Secondo alcuni si pigliano il buono dell'Unione Europea e poi quando è ora di fare la loro parte non lo fanno. Sì, può darsi che soprattutto, come ricordavo, sul capitolo giustizia ci possono essere delle nuove riforme, ma non subito, perché la priorità per la Polonia adesso è ottenere quanto più possibile da Recovery Fund e soprattutto bilancio settennale europeo, certo. Fondi strutturali che sono una benzina fondamentale per il paese, quindi, come dire, alzare la cresta adesso non è conveniente. Vediamo, certo. Vediamo finita la trattativa europea cosa certo. succederà. Senti, un ultimo aspetto che volevo toccare con te riguarda, come dire, l'aspetto religioso. Il cattolicesimo è molto forte, permea tutte, sia le città che le campagne. Quanto i valori cristiani vengono invocati e utilizzati anche dalla politica dei contendenti nell'arena polacca? Ma è chiaro, la Polonia è un paese molto cattolico, molto più cattolico di altri paesi europei, anche se pure lì si fa strada la secolarizzazione, sì. La Chiesa ha un'influenza forte, i politici, molti politici si dichiarano credenti, sia nel campo populista che nel campo liberale. Sia nelle città che nelle campagne. Dura e Kaczynski sono molto vicini agli attuali vertici della Chiesa, che non sono proprio allineati con Papa Francesco, che è quindi molto conservatori. I liberali denunciano atteggiamenti ipocriti e non cristiani da parte di Dura e Kaczynski, per esempio sull'accoglienza dei migranti, che è un tema che voi ricordavate. Ecco, fanno di tutto tranne che rispettare la parola del Vangelo. Ecco, allora, visto che abbiamo toccato il tema migranti, io a questo punto vi propongo di andare a fotografare quella che è la situazione, lo stato dell'arte dell'immigrazione in Polonia. Ricorderete tutti, ne abbiamo parlato da questi stessi microfoni, di questo atteggiamento particolarmente ambiguo, anzi refrattario a quelle che sono le quote di accoglienza dei rifugiati in Europa. Beh, a ben vedere, volendo, c'è un alibi, perché in effetti la quota degli immigrati in Polonia è del 5%, sto parlando di quelli regolari. Fotografiamo la situazione, poi la commentiamo insieme a Matteo Tacconi. Sentite. Secondo le stime del GUS, un ente di ricerca pubblico, a fine 2019 i cittadini stranieri residenti in Polonia erano poco più di 2 milioni, su un totale di circa 38 milioni di abitanti, pari al 5% del totale della popolazione. La maggior parte dei cittadini stranieri residenti in Polonia, 1.300.000 persone, proviene dalla vicina Ucraina. Seguono bielorussi, poco più di 100.000 persone, tedeschi, 77.000, moldavi e russi, ma anche indiani, georgiani, vietnamiti, turchi e cinesi. Nel corso degli ultimi anni la Polonia ha registrato tassi di immigrazione senza precedenti nella storia del paese e tra i più elevati di tutta l'Unione Europea. Solo nel corso del 2019 Varsavia ha rilasciato quasi 500.000 di permessi di lavoro, in crescita del 35% rispetto al 2018. I datori di lavoro polacchi guardano a est, in modo particolare all'Ucraina, alla ricerca di braccia per il mercato del lavoro locale, in particolare per i settori dell'industria e dell'agricoltura. Ma nel corso del 2019 si è registrato un aumento dell'11% anche per i permessi di lavoro rilasciati a cittadini provenienti dall'Asia, con Nepal e India in testa. L'epidemia di coronavirus e i provvedimenti adottati per ridurre la diffusione del contagio avrebbero spinto centinaia di migliaia di cittadini stranieri a tornare nel paese d'origine. Secondo le stime del centro di ricerca GUS, tra il 1 marzo e il 30 aprile, circa 200.000 persone avrebbero lasciato la Polonia, creando gravi problemi all'economia locale, ad esempio per la mancanza di braccianti nei campi. Questo è lo stato dell'arte della percentuale di lavoratori stranieri che negli ultimi anni hanno dato una mano anche all'economia polacca. Matteo Tacconi, eppure però le dichiarazioni, più in generale del blocco Visegrad, però anche della Polonia, rispetto alla ripartizione dei rifugiati, sono sempre piuttosto perentorie e normalmente rispondono a una parola, che è no, non li prendiamo. Il motivo è questo, quello che abbiamo ascoltato, oppure un alibi abilmente utilizzato dalla politica polacca? Ma è molta propaganda, cioè è chiaro che dall'Africa o dal Medio Oriente sono pochissimi gli immigrati che vanno o andrebbero in Polonia, quindi non ci sono, ok? Quindi Perché vengono attaccati? Perché comunque l'immigrazione e le minoranze sessuali, per tornare a un altro tema che hai toccato, fanno parte del paradigma liberale, e quindi io attacco duramente perché voglio attaccare quel paradigma. Poi è anche vero un discorso: la Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale smette di essere un paese multietnico, come era fino al 1939, diventa un paese estremamente polacco, e quindi c'è una disabitudine ad accettare e ricevere il diverso, che fa parte anche di come dire, di una questione psicologica. La Polonia, come tutti gli stati di quel lembo d'Europa, è una nazione che si sta riformando dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il lungo periodo comunista. Quindi certi meccanismi, prima di allinearsi, no, magari alla percezione, all'apertura dell'Europa preallargamento, il percorso è un po' più lento. Bisogna anche entrare in quest'ottica, ovviamente continuando a condannare un approccio che è assolutamente cinico e poco umanitario, ecco. Sì, anche perché ricordiamo, dati i numeri, soprattutto gli ultimi mesi, gli ultimi anni, se ciascuno dei 27 paesi dell'Unione Europea facesse la propria parte, la cosiddetta emergenza immigrazione non sarebbe più tale, e i giornalisti sarebbero costretti a cambiare anche i titoli a 6 colonne sui giornali. Ringrazio anche di aver tratteggiato questo aspetto Matteo Tacconi, giornalista freelance, matteotacconi.com. Lo ricordo, 15 anni di studio sulla Polonia, e insomma ci ha aiutato a capire meglio l'importanza dell'appuntamento di domenica. Matteo, buona giornata e buon lavoro. Ciao, alla prossima. Ancora buona giornata, ascoltatrici e ascoltatori. Se solo adesso vi siete sintonizzati, questa è la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Stiamo cercando di analizzare e sottolineare l'importanza delle elezioni presidenziali di domenica in Polonia. Una Polonia divisa fra chi è più filoeuropeista, chi è euroscettico, chi accoglierebbe i migranti, chi dice assolutamente no, chi flirta con Xi Jinping, chi occhieggia Donald Trump. Profonde differenze, profondo divario fra quella che è la percezione sociale e politica delle campagne, ma anche delle città. Ma ricordiamo che, a dispetto dell'Ungheria, per esempio, la Polonia ha una serie di centri urbani molto grossi, con una tradizione culturale molto ampia, per cui non dobbiamo immaginare una sola capitale e poi il resto della campagna. La Polonia si ripartisce egualmente, anche dal punto di vista delle sensibilità e delle sensazioni politiche, tra appunto città e campagna. C'è un ascoltatore che scrive un messaggio molto interessante, è Isacco, che scrive da Asolo. Mi divido per lavoro proprio tra Asolo e Cracovia da anni. Se una volta mi mortificava andare in Polonia, ora con le politiche di impresa e con le infrastrutture che si sono sviluppate in questi ultimi anni, mi mortifica tornare in Italia. Così chiude il suo messaggio, sconsolato, però interessante, perché apre un bello squarcio su quella che è stata, lo dicevamo, l'economia polacca dal 91, continua a fare passi da giganti, ora complice Covid-19, un calo del 4-5%, verrebbe da dire avercene di cali così. Intanto la BBC continua a dare aggiornamenti, ve lo dicevamo in apertura, sul pugnalamento di Glasgow, 3 morti in un albergo che era chiuso a causa del Covid-19. Roberta Fisani, facciamo sentire le ultimissime. Secondo le ultimissime, che fra l'altro mi segnalava Antonio Natale, sarebbero 6 le persone in tutto coinvolte, e l'attentatore dovrebbe essere stato neutralizzato dalla polizia con colpi di arma da fuoco, assolutamente incomprensibili per il momento le dinamiche, le motivazioni. Chiaramente torna alla memoria l'altro episodio, sempre il Regno Unito, di Reading, impossibile anche dire se vi sia un filo casomai rosso che collega questi due eventi. Torniamo però al tema principale di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Ve lo ricordo, sono le elezioni presidenziali in Polonia. Polonia quanto mai vicina per tutta una serie di elementi e di fattori, su tutti, visto che questa trasmissione si concentra molto spesso anche sulla politica americana. La visita di Duda, presidente in carica, a Washington, ha visto Donald Trump, e fra le varie cose, oltre a essersi stretti la mano virtualmente e aver rinsaldato il rapporto d'amicizia, Donald Trump ha detto che quel contingente di militari statunitensi presenti in Germania, lo sposterà in Polonia. Diremmo una bella medaglia che Duda si appunta al petto, forse da spendere proprio domenica. Piccola pausa, le strade e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Ho scoperto che il tempo libero è la più grande ricchezza. Scarica l'app Mobile Banking di Unicredit, così avrai più tempo per te. Scopri come poter vedere dall'app Unicredit i tuoi conti correnti con online banking attivo, anche di altre banche abilitate. È comodo e senza costi. Condizioni, modalità di adesione e banche abilitate su unicredit.it. Pubblicità, servizio dedicato agli aderenti a banca multicanale. Fogli informativi su unicredit.it e in filiale. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Le elezioni presidenziali in Polonia di domenica promettono di rinsaldare quello che è il potere di diritto e giustizia, benché i conti al Parlamento non tornino tantissimo, ma se Duda dovesse essere confermato, con quel suo potere di veto in una repubblica semipresidenziale potrebbe garantirsi continuità di governo. Ci sono molti messaggi che arrivano al 349-238-6666 sulla questione immigrazione. C'è chi stigmatizza il comportamento polacco, il rifiuto di accogliere la quota di richiedenti asilo. C'è qualcun altro che scrive: l'emergenza clandestini finirà di essere tale quando sarà impedito l'ingresso a chi vuole imporre la sua presenza senza esserne richiesto. Beh, allora un esempio potrebbe essere fare delle quote di ingresso, come già alcuni paesi fanno, le fanno stagionali, per esempio. Il problema però dei rifugiati è che esiste anche un diritto internazionale che l'Unione Europea rispetta. Peraltro la Polonia è stata anche profondamente legalmente sanzionata dall'Unione Europea stessa. Poi Giancarlo chiede se pensiamo vi siano mire politiche della Polonia sulla parte occidentale dell'Ucraina. Non mi azzarderei a dire questo, ma qua rimanderei una prossima puntata, magari tutta concentrata su quella che può essere la politica estera pura, nuda e cruda di Varsavia. 349-238-6666. A questo punto, velocissimi, torniamo alla Corte di Giustizia Europea su quando la Polonia è stata redarguita. Pribiski di Visegrad Insight, sentite. Il tema migrazione non ha avuto un ruolo centrale nella comunicazione di nessun politico durante questa campagna elettorale. Tutti i candidati hanno espresso preoccupazioni diverse, principalmente incentrate sull'economia e sulla sicurezza delle famiglie. Il tema della migrazione, oltre al ruolo dell'Unione Europea, sono stati argomenti marginali nella campagna elettorale, eccezione fatta rispetto alla comunicazione messa in atto nella televisione del governo, che ha propagandato i messaggi politici di 5 anni fa, fungendo da cassa di risonanza di sentimenti anti-immigrazione. Queste tematiche sono state cavallo di battaglia di Viktor Orbán, ma negli anni passati sono state raccolte anche dall'attuale maggioranza qui in Polonia. A parte quindi questo aspetto, i candidati non hanno mai fatto riferimento all'immigrazione nella loro comunicazione elettorale. Mostly through Viktor Orban, but also which were picked up by the current ruling majority. Otherwise than that, the candidates are not referring to this. Insomma, incredibilmente sembra che la campagna elettorale il dossier immigrazione sia passato in qualche modo di moda. Invece, quello che è tornato caldo, caldissimo, riguarda le comunità e le minoranze LGBT. Pensate che alcuni comuni della Polonia hanno voluto istituire sostanzialmente delle amministrazioni free LGBT. E in particolare Duda ha definito questa comunità portatrice di un'ideologia peggiore di quella del comunismo. Sentite Pribiski che ci spiega qual è la strategia politica dietro a queste dichiarazioni di fuoco e anche decisamente, scorrette. Andrzej Duda è in lizza per il secondo mandato ed è consapevole che è molto difficile vincere al primo turno. Nel secondo turno, per vincere, è necessario il 50% più uno dei voti, e l'unica possibilità per Andrzej Duda di ottenere quei voti, a parte appellandosi allo zoccolo duro del suo elettorato, che rappresenta forse il 50% circa, è di convincere la destra radicale, che è rappresentata però da un altro candidato, Krzysztof Bosak. Quindi Duda sta facendo del suo meglio per radicalizzare la sua figura attraverso l'attacco alla comunità LGBTQ. Duda cerca quindi di polarizzare lo spettro politico, mobilitando quell'elettorato a votare per lui e andando contro coloro che non ritengono positivo per il paese una tale polarizzazione. Questo messaggio si scontra con la visione politica di Rafa Charkovsky, che invece sta cercando di diffondere un messaggio di unità e speranza molto diverso dal messaggio di Duda e per questo pericoloso per la sua strategia politica. E anche la questione LGBT diventa una formidabile leva politica e elettorale. Vi faccio sentire allora la voce di Daria, che è un'attivista LGBT. Le abbiamo chiesto se si è mai sentita discriminata in quanto omosessuale in Polonia. Sentite. È successo alcune volte. Ad esempio, mentre stavo camminando per strada e avevo in spalla uno zaino con il logo della bandiera arcobaleno, alcune persone hanno iniziato a urlare insulti contro di me e i miei amici. Oppure, mentre sfilavamo in corteo alla manifestazione del Pride, c'era un gruppo di persone che insultava i manifestanti dicendo che chi è omosessuale non è un essere umano. È successo anche in famiglia, con mia nonna, che non rispetta affatto la comunità LGBT. È molto comune in Polonia parlare di ideologia LGBT e cose simili. LGBT ideology and other things like that. Anche Ola Kaczorek, che è un'attivista LGBT che presiede l'associazione di Varsavia L'Amore Non Esclude, sostiene una eccessiva politicizzazione, perdonatemi, da parte soprattutto della destra polacca di questa questione. E lo sottolinea la stessa Daria, attivista LGBT. Sentite. Fondamentalmente il governo polacco sta promuovendo una propaganda di destra estremamente conservatrice. La Polonia è solo per i polacchi, per i bianchi e per i cattolici. Ossia, per il tipo di persona più comune in Europa, bianco, cattolico e con la famiglia. Mi pare che la gente si stia scagliando contro la comunità LGBT solo perché in qualche modo si sente autorizzata dal governo. È una situazione in cui la violenza e l'odio non sarebbero legali. Usare frasi violente contro una persona non sarebbe legale, ma le autorità non si curano di applicare le leggi e così può succedere che in alcuni ambienti, come la scuola, ad esempio, se sei omosessuale, non vieni rispettato. Questa è la voce di Daria, attivista LGBT, raggiunta da Antonio Talia. Concludo con un messaggio che arriva da Donatella, che racconta che il figlio vive in Polonia, studia la Filmowa Łódź, qua sicuramente sbaglio pronuncia, cittadina universitaria, un sacco di giovani da ogni parte del mondo. Anche lui, come l'ascoltatore precedente, dice che è più entusiasmante la Polonia con la dinamicità di cantieri che fanno intravedere speranza per il futuro. Io invece intravedo una cosa. La chiusura della trasmissione, i titoli di coda, i ringraziamenti a voi, a tutta la squadra, l'appuntamento è per domani ore 10 col meglio di e poi lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.